Ad alta voce, Elia Shilton legge Le linee d'ombra, dal libro The Shadow Lines di Amitav Ghosh, copyright 1988, tutti i diritti riservati. Traduzione di Anna Natotti. Ottava puntata. La vigilia della partenza di Robbie per Darjeeling trascorremmo un lungo giorno ozioso in casa di Ayla, ciondolando in camera sua alla ricerca di uno spazio fresco sul pavimento, leggendo e discutendo. Quando il pomeriggio volse lentamente al termine e il sole tramontò, Ayla spalancò le imposte. La vista delle auto che avanzavano come lumache nella strada sottostante ebbe su di lei un effetto tonificante. «Su, andiamo da qualche parte», disse prendendomi per mano. «Non possiamo poltrire così tutto il giorno. E poi Robby parte domani, penso che dovremmo festeggiarlo». Robby si mosse torpidamente sul pavimento, depose il libro che stava leggendo. «Una festa, con questo caldo». «Sì», disse Ayla, «andiamo in qualche posto a divertirci». Robby e io ci scambiamo una lunga occhiata dubbiosa. «Non ho abbastanza denaro», dissi io. «Ce l'ho io», rise Ayla. «Vi farò credito». «Ma dove possiamo andare?» chiese Robby. «Ve lo dirò io», rispose Ayla. «Andiamo al Grand Hotel. Ho sentito dire che c'è un locale notturno». «E noi cosa ci facciamo in un locale notturno?» chiese ancora Robby. «Beh, possiamo bere una birra», disse Ayla, «e vedere il cabaret, cose così». «Bere», sbottò Robby, «in un posto del genere». «Dai, divertiti per una volta», disse Ayla. «In ogni caso, te ne andrai presto e dimenticherai tutto». «Ma perché vuoi andare al Grand Hotel?» chiese Robby. «Perché è il posto più elegante della città, naturalmente», disse Ayla, rovesciando indietro la testa. «Non è la ragione migliore?» «Non voglio andare in un posto come quello», ribatté Robby. Ma quando Ayla voleva una cosa, doveva averla. Si inginocchiò di fronte a lui e gli sfiorò i piedi con la fronte. «Per favore, Robby Kaku, solo per questa volta. Se non ti piacerà, ce ne andremo, te lo prometto». Così ci andammo. Ayla splendida con gonne e camicetta di seta, io e Robby trucemente ostinati nel rifiuto di cambiare la nostra solita uniforme da studenti, curtà e pantaloni spiegazzati. Quando arrivammo all'ingresso del Grand Hotel e vedemmo posarsi su di noi l'occhio da pesce morto del portiere con il doppio turbante, sia io che Robby avremmo volentieri continuato a camminare. Ayla però era proprio dietro di noi e con un fruscio di seta ci guidò attraverso il corridoio in un atrio illuminato da candelabri e ci condusse al banco della ricezione, dove con il suo più affettato accento inglese chiese dove fosse il nightclub. Convenientemente rispettosi, ordinarono a un usciere in livrea di accompagnarci. All'interno era così buio che il cameriere dovette guidarci fra i tavolini liberi con l'aiuto di una torcia elettrica. Sentii qualcosa di umido e stranamente peloso che mi sfiorava la faccia. Alzai istintivamente il braccio per scacciarlo, lo sentii di nuovo sull'avambraccio e feci un salto indietro urtando una sedia. «Che cosa c'è?» gridai. «Ho sentito un solletico sulla pelle, qualcosa mi ha toccato». «È solo la decorazione, signore», rispose il cameriere. Si fermò a un tavolo libero e porse una sedia a Ayla. Ci sedemmo e quando i nostri occhi si furono abituati all'oscurità, notammo che ogni spazio libero era occupato da ondeggianti fronde di palma. Sulle pareti erano dipinti dei catamarani e dal soffitto pendevano grappoli di noci di cocco. Ayla indicò l'orchestrina su una piattaforma a lato della pista da ballo. Era formata da 4 uomini vestiti di scuro, con cravatta farfalla e cappelli di paglia. Ridacchiò: «Suppongo che questa debba essere una spiaggia». Congiunse le mani e guardò noi due sorridendo. «Bene, ordiniamo una birra?» Assentì quando si rivolse a me, ma Robby non aprì bocca. «Non puoi semplicemente fingere di essere in collegio?» gli domandò, «se ti fa sentire meno ipocrita». Robby alzò bruscamente una mano e fece un segno al cameriere. Quando il cameriere si avvicinò, disse: 3 birre, per favore». Appoggiò sul tavolo la mano distesa e si girò a guardare Ayla, ruotando le spalle larghe e forti. «I tuoi amici trotskisti sanno come passi il tuo tempo quando non vai alle manifestazioni per la rivoluzione?» Ayla sorrise e tamburellò sulla guancia con l'indice. «Non si può manifestare per una rivoluzione, stupido. Quanto a me, certo che lo sanno. E non gli importa nulla, perché i trotskisti non sono piccoli impiegati noiosi come voi vi preparate a diventare». Si arrabbiò con se stessa subito dopo averlo detto. «Ti prego, Robby, perdonami, è la tua ultima sera qui. Non litighiamo». Il che lo fece arrabbiare ancora di più, ma come sempre, quando era davvero arrabbiato, non trovò nulla da dire. Poi arrivarono le nostre bottiglie di birra e lui si concentrò nel versarle. Quando i bicchieri furono pieni, sollevò il suo e ne beve la metà con un lungo sorso. Poi si appoggiò allo schienale, si pulì la bocca sospirando e rimase a fissarlo. Con mio sollievo, preceduto da un vigoroso rullo dei tamburi, il leader del gruppo musicale annunciò al microfono: «E ora, signori e signori, abbiamo qui Miss Jennifer, che canterà per voi. Per favore, datele una mano». Dal buio, con inchini e mossette, emerse Miss Jennifer, una donna matronale, bianca come un foglio di carta, in una tilatissima guaina cremisi intessuta di lustrini d'argento. «Salve, amici!» urlò con una vocetta acuta, piena di artificiosa allegria. «Salve anche a voi laggiù! Forza, tenetevi pronti per una scorpacciata di divertimento!» Le luci ruotarono vorticosamente, i lustrini esplosero in lampi di colore. «Robby, ti andrebbe di ballare?» «Non so ballare», rispose lui alzando gli occhi. «E anche se fossi capace, non lo farei in un posto come questo. Penso che dovresti sederti, perché non ballerai neanche tu». Sulle prime si mostrò soltanto sorpresa. «Io non ballerò?» chiese. «E perché?» «Perché non te lo permetterò», rispose tranquillamente Robby. «Tu non me lo permetterai?» I muscoli del suo viso si irrigidirono. «Tu non me lo permetterai perché? Chi credi di essere?» Robby incrociò le braccia sul petto. «Non ha importanza chi sono, non te lo permetterò». «Ti dirò che cosa intendo fare», disse Ayla. «Intendo andare da quei signori laggiù e chiedere a quello magro se vuole ballare con me». Girò sui tacchi e si allontanò. Immobile sulla sedia, Robby la osservò mentre si dirigeva verso i due uomini. Vedemmo che sorrideva loro, poi piegava con grazia la testa per parlare al più magro dei due, il quale si alzò in piedi. Vedemmo la faccia di lui che accennava un sorriso e poi si velava di un'ombra maliziosa, cupida. Lei sorrise di nuovo e quello, con un gesto impaziente, si fece avanti e le prese una mano. Sentì il rumore stridulo della sedia di Robby e balzai di lato per trattenerlo. Mi spinse da una parte con una gomitata e li raggiunse con 3 lunghi passi. Con una mano afferrò il colletto della camicetta di Ayla e con uno strattone la separò dall'uomo. Poi aprì il palmo della mano e lo piantò saldamente in mezzo al petto dell'uomo. Inarcò la schiena e all'improvviso ruotò su se stesso con una tale forza che l'uomo indietreggiò di un metro buono, trascinando con sé la sedia. La cantante lasciò cadere il microfono e i musicisti si bloccarono in un argenteo quadro vivente sotto il riflettore. Ci fu un momento di assoluto silenzio. Poi come nella pellicola di un film che riprende a girare, tutti tornarono a muoversi e una folla di camerieri ci si fece intorno. L'unica persona assolutamente calma era Robby. Tenne le mani aperte, tese davanti a sé e con voce tranquilla e dolce disse: «Non toccatemi. Pagheremo e ce ne andremo subito, ma non toccatemi». Tirò fuori dal portafoglio una banconota da 50 rubli e la porse al cameriere. Poi circondò Ayla con un braccio e ci condusse fuori. I camerieri ci seguirono fin sul marciapiede. Ayla non aprì bocca finché non fummo davanti al museo. All'angolo si fermò e si appoggiò alla cancellata di ferro battuto. «Sei impazzito?» chiese a Robby come se vomitasse le parole. «Che cosa pensavi di fare?» «Senti», rispose Robby, «adesso è finita. Vediamo di dimenticarcene». «No, che non ce ne dimentichiamo». Adesso Ayla gridava, ma con una voce bassa, come fanno a volte le donne. «Non ce ne dimentichiamo per niente. Dimmi soltanto che cosa pensavi di fare». «Ascoltami, Ayla», disse Robby scuotendo la testa. «Non avresti dovuto fare quello che hai fatto. Dovresti saperlo. Qui le ragazze non si comportano così». «Che cosa vuol dire?» Era piena di disprezzo per lui. «Che cosa significa ragazze? Io faccio quel cazzo che mi pare, quando e dove mi pare». «No», disse lui, «non se ci sono io in giro. Qui le ragazze non si comportano così». «Perché no? Per quale stronzissima ragione no?» «Puoi fare quello che vuoi in Inghilterra, ma qui ci sono alcune cose che non puoi fare. È la nostra cultura, il nostro modo di vivere». Lei continuava a fissarlo con gli occhi spalancati, senza parole. Infine girò su se stessa per guardarmi in faccia. «Lo capisci ora?» Si morse rabbiosamente le labbra e dagli occhi sgorgò un fiume di lacrime. L'abbracciai e la tirai verso di me. Si asciugò il viso nel mio courtat, singhiozzando e continuando a ripetere: «Lo vedi? Lo capisci ora?» E io, senza capire, ripetevo con il suo stesso ritmo: «Ma vedere cosa? Capire che cosa?» Intanto cercavo di frenare le sue lacrime con il dorso della mano. Allora mi allontanò e feci cenno a un taxi che si fermò. Lei ci saltò dentro, abbassò il finestrino e urlò: «Capisci adesso perché ho scelto di vivere a Londra? Lo capisci? È solo perché voglio essere libera!» «Ma libera da cosa?» dissi io. «Libera da te!» mi urlò di rimando. «Libera dalla vostra maledetta cultura e libera da tutti quanti voi!» Ecco quel che dissi a mia nonna mentre giaceva malata nel suo letto, con gli occhi fissi su di me. Le dissi che Ayla viveva a Londra soltanto perché voleva essere libera. Tuttavia mi resi conto di aver fatto un errore nel momento stesso in cui lo dissi. Avrei dovuto sapere che la nonna non poteva che disprezzare una libertà che si poteva comprare al prezzo di un biglietto aereo. Infatti anche lei un tempo aveva desiderato essere libera, aveva sognato di uccidere per la propria libertà. «Non è la libertà ciò che vuole», disse la nonna, con gli occhi iniettati di sangue che le luccicavano nelle orbite del suo volto scavato. «Vuole essere lasciata sola a fare quel che le pare, è ciò che vuole qualsiasi puttana. Ci riuscirà facilmente laggiù, è proprio quello che hanno da offrire quei posti, ma non significa essere liberi». Tornai dalla nonna la mattina dopo. C'era un'infermiera e quando mi vide entrare, la nonna le chiese di aiutarla a girarsi dall'altra parte per non vedermi. Rivolsi alla sua schiena alcune domande generiche, ma non mi rispose. L'infermiera era imbarazzata. Con il suo tono più cortese si rivolse alla nonna: «Su, perché non gli risponde? Dopotutto è suo nipote». Non potevo vedere l'espressione di mia nonna, ma l'immaginavo. Allungò il braccio verso la padella riposta dentro un comodino accanto al letto e cercò di scagliarla contro l'infermiera, ma era così debole che riuscì a malapena a farla cadere sul pavimento. L'infermiera era sbalordita. Assisteva mia nonna solo da 2 giorni, aveva cercato di essere gentile. «È meglio che lei vada», mi disse. «La malata è fuori di sé». Le mie vacanze stavano per finire. Dal momento che le condizioni della nonna erano migliorate, mio padre e mia madre decisero che dovevo tornare a Delhi. Mancavano solo 3 mesi agli esami finali e durante le vacanze non avevo quasi toccato libro. Mi ero preparato a restare, ma fui fin troppo lieto di accettare il loro consiglio. Il giorno della partenza, mia madre mi accompagnò in camera della nonna per salutarla. Era seduta nel suo letto e aveva un aspetto migliore, come non la vedevo da molto tempo. Con mio sollievo, mi parlò tranquillamente del college e dei prossimi esami. Le toccai i piedi quando giunse l'ora di andare e, come sempre, lei trasse a sé la mia testa per darmi la sua benedizione. Udii il familiare mormorio benedicente. Poi avvicinò la bocca al mio orecchio. Percepivo il calore del suo fiato. «Perché hai lasciato che quella puttana ti intrappolasse?» sussurrò. «Lo so che è lei che ti spinge tra le braccia di quelle puttane da cui vai a Delhi. Pensi che non lo sappia? Pensavi che te lo avrei permesso?» Con uno scatto liberai la testa dalle sue braccia. Mi guardò negli occhi e sorrise. Non riuscivo a convincermi che questa povera donna avvizzita, distrutta, fosse la stessa persona che avevo tanto amato e temuto. Per 2 mesi i miei genitori scrissero un giorno sì e un giorno no, dandomi notizie della nonna. Dopo che lasciai Calcutta, le sue condizioni migliorarono. Poi, per ragioni che i medici non riuscirono a comprendere, peggiorò gravemente. Quindi si riprese di nuovo, miracolosamente, al punto da poter leggere e persino scrivere alcune lettere. In seguito non ricevetti notizie per un'intera settimana. Non avevo tempo di pensare ad altro che alla storia dell'India, perciò non mi preoccupai se non occasionalmente. Nella lettera successiva i miei genitori mi comunicarono che la nonna era morta e l'indomani era stata cremata. Avevano deciso di non telegrafarmi per evitare che mi precipitassi a Calcutta. Non volevano disturbarmi alla vigilia degli esami. Mentre camminavo per le strade deserte, mi accorsi di piangere non tanto per il dolore quanto per la rabbia di non essere stato avvertito in tempo dai miei genitori in modo di poter assistere alla sua cremazione. Sembrava esserci qualcosa di opportuno nel modo in cui avevo saputo della morte della nonna. Era sempre stata una persona troppo appassionata per trovare uno spazio reale nel mio ordinato mondo tardo borghese, il mondo che avevo ereditato, in cui gli esami avevano un posto più importante della morte. Giorni dopo, un inserviente venne a portarmi un messaggio del preside. Voleva vedermi con urgenza. Riposi i miei libri e mi affrettai verso il suo ufficio. Era un uomo piccolo, presuntuoso, che non piaceva a nessuno. Tuttavia, nessuno si prendeva la briga di averlo particolarmente in antipatia. Non ne valeva la pena. Quando entrai nel suo ufficio, mi indicò una sedia e appena fui seduto, prese un foglio di carta che giaceva sulla scrivania e disse: «Mi dispiace disturbarti proprio in questo momento, ma si tratta di una questione assai grave». Sebbene mi apparisse ridicolo, ero allarmato dal tono della sua voce. Aveva il potere di distruggere ogni mia possibilità di carriera accademica. «Qual è esattamente il problema, signore?» dissi io. «Abbiamo saputo», disse prendendo di nuovo il foglio di carta, «che hai frequentato delle prostitute in case di malaffare. Qui si dice che per il tuo stesso bene dovresti essere espulso immediatamente e rispedito a Calcutta». Ero talmente sbalordito che continuavo a fissarlo senza aprir bocca. Infine riuscii a dire: «Chi le ha dato una simile informazione, signore?» «Tua nonna», disse porgendomi il foglio di carta, «puoi vederlo tu stesso». Era una lettera di appena 3 righe. La scrittura era assai malferma, ma apparteneva indiscutibilmente a mia nonna. Diceva di essere al corrente del fatto che frequentavo delle prostitute a Delhi, che mi aveva parlato, e io non avevo mostrato alcun segno di volermi ravvedere. Pertanto, essendo lei stessa un'insegnante, riteneva che il mio college, se aveva qualche rispetto per il proprio buon nome, avrebbe dovuto rimandarmi a casa. Ero così sconvolto dalla vista della sua mano resuscitata, che veniva a raggiungermi dopo la morte, come aveva fatto durante tutta la mia infanzia, che mi ci volle un po' di tempo per riprendermi abbastanza da dare una spiegazione al preside. Guardandolo dritto in viso, gli dissi che in tutti i miei anni di collegio non avevo frequentato alcun posto più disdicevole del cinema Chanakia o del ristorante Khyber di Kashmiri Gate. Aggiunsi che mia nonna era gravemente malata quando aveva scritto quella lettera e che durante la malattia era stata spesso vittima di allucinazioni. La situazione era talmente assurda che ben presto il preside perse ogni fiducia in quella lettera e mi lasciò libero. Mi avvertì però che mi avrebbe tenuto d'occhio durante le ultime settimane di permanenza al college. Quando mi alzai per andarmene, diedi uno sguardo di sfuggita alla lettera. Aveva scritto anche la data nell'angolo a destra, in alto, come era solita fare. Più tardi, ripensandoci e confrontando le date, mi resi conto che aveva scritto quella lettera il giorno prima di morire. Non ho mai capito come abbia saputo delle donne da cui mi sono recato un paio di volte con i miei amici. Non so neppure come abbia intuito che amavo Ayla tanto tempo prima che io osassi ammetterlo con me stesso. Era la voce di Elia Shilton per Le linee d'ombra di Amitav Ghosh, scelto per voi dalla redazione di Ad Alta Voce proprio a 30 anni dall'uscita di questo libro di uno degli autori più amati a livello internazionale, autore indiano che utilizza l'inglese per la sua scrittura, la traduzione in italiano è invece quella di Anna Nadotti. Vi ricordo che Ad Alta Voce è una trasmissione a cura di Anna Antonelli, Fabiana Carobolante con Lorenzo Pavolini e Chiara Valerio. Le puntate precedenti, questa era l'ottava, potete recuperarle sul sito raiplayradio.it. Vi ricordo che a partire dallo scorso lunedì 26 novembre fino al 2 dicembre è in corso la campagna dell'UNICEF sostenuta dalla RAI, campagna di raccolta fondi attraverso un numero solidale per raccogliere fondi per combattere la malnutrizione, che è causa e con causa di morte per oltre 3 milioni di bambini sotto i 5 anni in tutto il mondo. Ecco, con donando 2 euro ad esempio con un SMS al 45525 si può contribuire proprio a raccogliere fondi e soprattutto fare acquisti concreti per combattere la malnutrizione. Un esempio: con 15 euro possono essere donate 30 bustine di latte terapeutico per nutrire 5 neonati colpiti da malnutrizione acuta, con 35 possono essere acquistati 15 marsupi che garantiscono protezione e calore ai neonati, e con 50 si forniscono alimenti terapeutici pronti all'uso per un un'intera cura salvavita di 8 settimane. Questo è soltanto un esempio, potete contribuire al 45525 anche da numeri fissi, con cui potete donare 5 o 10 euro per l'appunto dal numero di rete fisso, oppure 2 euro con un SMS solidale. Questa è la campagna UNICEF sostenuta da RAI e proseguirà ancora fino al prossimo 2 di dicembre. Sono le 17:30 minuti e 10 secondi a Fahrenheit. Concludiamo anche l'ascolto dedicato al Roland Kirk Quartet, un autore e un polistrumentista particolarissimo, considerato fondatore del flauto jazz moderno. Si dice appunto che la sua abilità fosse poi anche al centro delle sue composizioni. Pensate che era in grado di suonare fino a 3 sassofoni per volta. Nella versione che abbiamo ascoltato, l'album scelto per voi del 1965, Rip, Rig and Panic, Roland Kirk suona in quartetto con Jackie Bird al piano, Richard Davis al basso, Elvin Jones invece alla batteria. E il titolo particolarissimo che poi ha ispirato anche molti altri artisti, una band funk degli anni 80 per esempio ha scelto proprio il titolo di questo disco come nome per la band stessa, ha un significato particolare. RIP significa riposa in pace, ovvero la situazione in cui si trovano le persone e i musicisti, dice per l'appunto Roland Kirk, mentre il RIG sta per rigor mortis, che è la situazione in cui si trovano le menti delle persone, mentre il panico, dice sempre Roland Kirk, nasce nelle menti della gente quando mi metto a fare qualche cosa che loro pensano che non si possa proprio fare. Tutto questo sono gli ingredienti del jazz di Rip, Rig and Panic, 1965. L'ultimo brano che ascoltiamo si intitola Black Diamond. Era Roland Kirk con il suo quartetto per Rip, Regan, Panic, album jazz del 1965, scelto per voi dalla redazione di Musica Trail. Il brano ascoltato era Black Diamond ed è stato, insomma, il jazz di Roland Kirk, il contrappunto musicale del nostro pomeriggio di libri